d'improvviso, questi ancora s'imprigioni, come non servire al più possente guerriero dell'Oriente, alle grandezze nostre s'oppongono costoro, temerari infidi, arpago io se ne vo, tu è lindo uccidi, barba ferita, genio tiranno, al regno sol fa strada, o l'inganno la spada. Pietà mi fa di geno, via, che mai risolvo? E che più badi? Stringo il ferro, ad un tempo cadon ambo sferati. Oh, crudi cieli, fate, libero l'acciaio, innalza il colpo, quando troppo l'atto esecrando. E quel tromba importuno mi ferisce l'udito. Salvo Persi e Stadina. Orrea sciagura, o strano evento. Ma come fra catene? Sono Alinta e Arpago. Fu barbaro comando d'argine, che innocente mi fe stringer fra i ceppi. Io pur mi vedo cinta d'aspre ritorte, ne trovo il mio delitto. Ambo sian sciolti. O crudele destino, che sarà mai? Argene troppo fiera, ed empia troppo tu sei. Ma furon vani tuoi perversi attentati. Ecco salva Statira, l'innocente germana che esponesti con barbaro coraggio agli orsi. Ingrata io fui che la serbai. Ogni altro ella deluse, ave solo e consorte. Confermo! Apollo subbidisca. Argene intanto, e la scuola innocente in un mio offese, cinta vivrà d'asprissima catena. Accunito all'errore,